Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, buonasera e benvenuti a questa prima puntata di Smart City, la città intelligente, che è una trasmissione nuova ma che raccoglie l'eredità di Mr. Kilowatt non solo perché continueremo a tenere una finestra aperta sull'energia, ma perché di Mr. Kilowatt vogliamo proseguire, per così dire, la vocazione a spiegare le cose senza rinunciarci anche quando si fanno un po' tecniche. E d'altronde oggi, insomma, lo sappiamo, la tecnica è davvero in ogni aspetto della nostra vita lavorativa, sociale, persino ormai nella vita privata. Ebbene, Smart City vuole continuare a usare questa chiave di lettura, ma allargando e non di poco il campo, allargandolo cioè a tutti i possibili ingredienti necessari a costruire le città del futuro. Questa è una grandissima sfida di questo secolo. Detto questo, capirete subito perché seduto qui di fianco a me c'è Federico Pedrocchi, che molti conoscono come conduttore di Mebius, la nostra trasmissione di scienza. Ciao Federico. Ciao Maurizio. Allora Federico, tu sai insomma che con Mr. Kilowatt abbiamo rivoltato in quasi tutti i modi possibili il tema dell'efficienza energetica, ma dicevamo, una città intelligente non è solo energeticamente sostenibile. No, c'è molto di più e infatti è per questo anche che sono qui, perché ogni tanto ti darò una mano nel descrivere questo universo decisamente più ampio. Ci sono degli altri media che ci daranno una mano e quindi c'è una redazione allargata, ma non stiamo a annoiarvi adesso di questi temi, mentre invece cerchiamo ancora di definire meglio appunto che cos'è Smart City. È un insieme di progetti mondiali. Sì, intanto. Oggi forse c'è bisogno di spiegarlo, è una cosa che però probabilmente cambierà rapidamente nei prossimi mesi, forse addirittura. Hai detto giusto, cioè è ancora qualcosa che circola in un ambito abbastanza ampio di addetti, però sta proprio gonfiandosi, ci sono progetti in tutto il mondo e incominciano ad esserci cose assolutamente interessanti anche in Italia e noi ve le racconteremo tutte. Per esempio, eliminare le zanzare, potete mettere sui balconi qualcosa che le elimina. Allora, questo sembrerebbe decisamente piccolo, però occhio che se le eliminiamo da tutti i balconi va via da tutta la città. Spariscono dalla città. Oppure qualcosa di decisamente più grande, pensate, cambiare tempi di lavoro e tempi di vita, questa sarebbe una rivoluzione. Sarebbe una rivoluzione. Dunque, insomma, Smart City è veramente un orizzonte molto ampio e che la radio inizi a parlarne proprio di questi tempi e che abbia intenzione di seguire da subito, insomma, questo scenario è una scelta che a noi pare molto interessante, perché di futuro abbiamo decisamente bisogno. Abbiamo bisogno di cambiare molte cose, di trovare dei motori per un nuovo sviluppo, e ridisegnare le aree metropolitane è certamente uno dei motori più potenti che possiamo immaginare. Basta d'altra parte farsi un giro nelle città italiane per rendersi conto che ci sono molte aree nelle quali c'è bisogno di fare qualcosa, no? Tantissime. Non solo, sapete tutti che le amministrazioni locali hanno la cinghia tirata, anzi direi tiratissima di questi tempi, però sulle smart city il governo europeo ha intelligentemente investito molto, direi moltissimo, sapendo proprio che possono essere uno dei fattori di sviluppo. Il governo europeo ha una visione un po' ampia, per fortuna. Questo significa che le città, e quindi anche le nostre città, potranno usufruire di investimenti ingenti. Attenzione, si parla di miliardi di euro, insomma, c'è da lavorare. Naturalmente siamo solo agli inizi e questa grande potenziale progettazione del futuro è la parte più stimolante, però dobbiamo anche stare attenti perché non stiamo parlando solo di futuro, e questo è un altro elemento fondamentale, perché ci sono già molti progetti in corso anche qui da noi nel nostro paese, progetti di amministrazioni locali ma anche di aziende e poi anche molte idee che sono già state messe a punto da quei giovanissimi innovatori che popolano e fanno nascere ogni giorno anche nel nostro paese nuove start-up che si affacciano su questo mondo, quello della produzione e dell'impresa. Ma facciamo qualche esempio, Federico, delle tante cose che ci sono in moto. A Pisa, per esempio, sta nascendo per la prima volta un piano regolatore digitale, ovvero l'idea di sviluppare una visione centrale di tutti gli interventi che bisogna fare per dotare di infrastrutture una città, magari evitando di spaccare la strada asfaltata la settimana prima, come accade quasi invariabilmente. È uno dei misteri, del nostro paese, questo. Famosissimo. E quindi una croce sopra sugli interventi a macchia di leopardo. A Torino stanno andando molto avanti in questa direzione di fare sintesi con un progetto molto concreto che cerca di mettere insieme tutte quelle sorgenti di produzione di dati, pubbliche, private, grandi, piccole aziende, centri di ricerca, che però ognuna ha i suoi dati e il suo database, con il risultato che non si riesce ad avere una visione complessiva. Il comune sta mettendo a disposizione una grande centrale in cui questi dati saranno utilizzabili appunto in modo unificato. Insomma, un po' quello che sta cercando di fare l'Agenzia delle Entrate per beccare gli evasori, ecco, esatto, ma diciamo con scopi più umanitari, sì, potremmo dire così, anche se serve, comunque. Sì, assolutamente, assolutamente. Invece c'è una startup di Roma, anche questo è un progetto interessante, che si è inventata un metodo per risparmiare una delle cose più noiose della vita, le code in posta, ma magari presto verrà esteso altrove, no? In pratica c'è modo di prenotare a distanza il proprio turno e così insomma si evita di star lì ad aspettare, e c'è questo elemento del tempo che tornerà molto spesso, vero Federico? Quando andiamo molto più avanti e cerchiamo di vedere se grandi aziende, perché no, anche quelle piccole, riescono a cambiare i loro tempi di lavoro. Microsoft, per esempio, in Italia sta partendo con una soluzione che è già attiva in Francia e in Olanda nelle loro sedi centrali, non si timbra più il cartellino. C'è un'assoluta disponibilità da parte dei dipendenti di organizzare i loro tempi di lavoro. Se con il loro gruppo decidono di lavorare dalle 21 a mezzanotte, possono farlo, perché no? E questo certo ha degli enormi presi per esempio sul traffico. Ma insomma l'elenco è lunghissimo, gli argomenti che tratteremo sono tanti, però teniamo a ripeterlo, una finestra sempre aperta sui temi energetici, ci impegniamo a mantenere vivo questo osservatorio, non solo per tirare fuori ogni tanto dalla naftalina Mr. Kilowatt, ma per una ragione fondamentale, cioè che la gestione intelligente dei processi energetici è un fondamentale, quasi un presupposto per costruire ulteriore intelligenza, vero? Quasi uno stile. Qualunque soluzione smart, anche quella delle zanzare sul balcone, insomma, se non funziona bene il bilancio energetico, bisogna fargli una croce sopra. E allora domani, siccome l'unica cosa di cui oggi non abbiamo parlato è la mobilità, ci occuperemo proprio di questo, andremo a Saronno, dove quasi tutti viaggiano a 30 all'ora. Oh, boh. Ciao Federico. Ciao Maurizio. A domani.